La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Abbiamo voluto aprire così con le note della colonna sonora che diede a Luis Bacalov il premio Oscar, la colonna sonora del Postino, perché Luis Bacalov ci ha lasciato nel corso di questa settimana. È un omaggio, un inizio di omaggio, perché poi ne faremo un altro molto sentito, quello che vi faremo ascoltare, cioè un'intervista che avevamo registrato con Luis Bacalov una decina d'anni fa, nella quale raccontava con grande simpatia, con grande perizia, quello che era il suo modo di lavorare, il suo rapporto appunto con la musica da film e con quell'esperienza incredibile del Postino che gli diede nel 1996 il premio Oscar consegnato dalle mani di Sharon Stone. Insomma, Luis Bacalov ci ha lasciato questa settimana, ma il cinema come sempre continua, e continua con l'attualità, con i film da vedere in sala. Ne parleremo, abbiamo quattro spunti più o meno interessanti, poi magari di film più o meno riusciti, ma insomma sicuramente interessanti da sottoporvi. E poi attenzione, perché prima della fine della trasmissione arriva un'intervista con un ospite straordinario, Elio, ormai ex Storie Tese. Perché? Perché sta per arrivare a Milano Spamalot, il musical tratto dal film dei Monty Python, e noi ve lo dico già adesso, manderemo i nostri ascoltatori, 5 coppie di nostri ascoltatori, a vedere lo spettacolo al Teatro Nuovo di Milano il 20, lunedì 20, la sera del 20, proprio a Milano, appunto, per vedere Spamalot. I primi 5 che scriveranno, da quando ve lo dirò io, come diceva qualcuno, la cosa che vi dirò io. E così non vi dico niente e andiamo avanti così. E cominciamo subito, quindi state qua, non vi muovete la prossima ora, si parla solo di cinema. Cominciamo subito con il salutare Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, puntata molto ricca, come abbiamo detto, quella che ci aspetta, e molto ricca anche per quanto riguarda i contenuti in sala. Cominciamo con un film che è molto annunciato, nel senso che ha fatto un ottimo battage pubblicitario pre-uscita, quasi a dire attenzione, concentratevi, questo è un film da non perdere. Si intitola The Big Sick. Non abbiamo ancora rifatto sesso. Non sono quel genere di ragazza, faccio sesso solo una volta al primo appuntamento. E adesso chiamo un Uber. Il tuo autista è pronto, deve solo infilarsi i pantaloni. Ti devo dire una cosa importante, mi vedo con una ragazza, è bianca. Una ragazza bianca? È un tale cliché. Tutto ok, non siamo terroristi. Lo so che sono passati solo pochi mesi, però sono pazza di te. Anch'io sono pazzo di te. Ma adesso la dobbiamo smettere, non mi chiamare più. Promesso. E allora, Boris, la storia di un ragazzo, di un comico che si guadagna però da vivere guidando auto a noleggio, è un pakistano negli Stati Uniti, e chiaramente conciliare queste due culture non è sempre facilissimo, soprattutto se ci si mette di mezzo l'amore e se le famiglie non sono del tutto d'accordo. Lo potremmo chiamare il mio grosso grasso matrimonio mancato pakistano? Assolutamente sì, è abbastanza geniale come definizione, la userei se fossi nel distributore come Flano sul poster, sulla locandina. E anche se devo dire che The Big Sick è molto meglio, un po' perché il battage, lo spiega già il battage non è stato tanto pubblicitario di marketing quanto proprio di qualità e passaparola. A chi ancora pensa che i festival non siano utili, è da locarlo che si parla di questo film e si parla per l'entusiasmo che ha suscitato in chi l'ha visto. E come dici tu, ed è giusto partire da là, si prende un'intuizione molto buona che c'era già fin dagli anni 90, di quelle rom-com, di quelle commedie romantiche che mettevano la differenza etnica, no? Una vecchia storia, pensiamo a Indovina chi viene a cena, come sviluppo di una commedia con però risvolti molto intelligenti, molto interessanti, molto anche politici e sociali. The Big Sick ha questo incredibile equilibrio. Sarà probabilmente che la storia è quella vera dei due sceneggiatori, loro sostengono addirittura che le parti più divertenti, le parti più tragiche neanche ci sono, e che quindi scrivendolo hanno dovuto togliere, non aggiungere. Questa contraddizione viene risolta senza nessun tipo di razzismo neanche malcelato, con una voglia di comprensione e di avvicinamento e di integrazione che non è annessione culturale, è semplicemente il ricordare anche dalla parte americana che tutto ciò che è assolutismo, tutto ciò che è fondamentalismo, tutto ciò che è regola arcaica è sbagliata ed è buffa ed è grottesca a vederla. Che cosa succede? Che come nelle belle commedie anni 90 tu esci con un sorriso persistente dalla sala, esci anche con un piccolo magone perché ti sei commosso, perché le storie d'amore raccontate bene ti commuovono, hai sorriso tanto, ti sei magari stretto alla tua fidanzata un po' di più perché ti sei anche rivisto. E alla fine questi due sceneggiatori hanno vissuto bene e hanno scritto bene e sono aiutati anche da due begli attori, da sottolineare la prova di Suo Kazan, e da un regista che è molto diligente nel portarla a casa, capendo di avere già un grande materiale, non aveva bisogno di colpi di tacco alla macchina da presa. Allora, nessun colpo di tacco, ma sicuramente molti gol in The Big Sick, a questo punto viabilità. Poi fra poco torniamo insieme, ci dedichiamo un po' al cinema italiano perché ci sono due proposte molto diverse, piuttosto interessanti. Cominceremo proprio con I'm Infinita come lo spazio, fra poco. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea, dicevamo, si dedica al cinema italiano con un paio di film. Tra poco parleremo della Casa di Famiglia, commedia un po' più convenzionale, diciamo, nel nostro panorama. Sicuramente un po' più particolare invece il nuovo lavoro di Ann Rita Ciccone, si intitola I'm Infinita come lo spazio, racconta storie di adolescenti particolarmente, non difficili, ma particolarmente originali, diciamo, nel loro contesto. Sicuramente fuori dal coro, due anime che poi si troveranno. Sempre da solo, povero spiegato. Credevi davvero di poter essere come noi? Lo so che sembra una di quelle stronzate che dicono gli adulti, ma credo proprio che dovresti tirare fuori le palle. Dentro, copri la porta, vai a destra! Tu perché non provi a tornare coi piedi per terra, a essere realistica? Dovrei chinare la testa a diventare una sfigata come te. E allora, la storia di una ragazza, come diciamo, originale, particolare, Jessica, i suoi capelli viola, i suoi 17 anni, sempre pesanti, sempre ingombranti, soprattutto se non sei omologata. Un grande talento nel disegno, una sorta di solitudine che però non appare più tale quando un ragazzo che sembra un po' come lei, Peter, cerca e riesce soprattutto a capirla nel profondo. E chiaramente queste due solitudini si incontrano e diventano una vera e propria forza. Dirige Ann Rita Ciccone, un cast internazionale con Barbara Babulova, Guglielmo Scilla, Giulia Jentsch e Mathilde Bunschu, che è proprio la ragazza, la protagonista, Jessica, in una coproduzione europea, Italia, Germania, Polonia. Boris, il tema è sicuramente un tema di quelli importanti, di quelli che chi ha figli in età adolescenziale conosce per esperienza diretta o per sentito dire. Come è stato portato a casa, come è stato realizzato da Ann Rita Ciccone, che è comunque una regista sempre con delle modalità, diciamo, proprio di regie e di espressione interessanti? È stato portato a casa benissimo, perché viva i registi e viva il cinema che si prende la responsabilità di essere tale. Il cinema è uno straordinario inventore di universi, i registi spesso lo sono, e Ann Rita Ciccone prende tutto quanto quello che ha sulla tavolozza dei suoi colori e prova a metterlo dentro e ci riesce in un puzzle che quando tu lo vedi smembrato dici come andranno questi tasselli, sembrano tutti completamente diversi, impossibili da incastrare, e poi magicamente invece davanti ai tuoi occhi la musica di Project Pitchfork, la sequenza del loro concerto è qualcosa di notevolissimo, i colori che sono fondamentali in questo film, il 3D, i due piani narrativi, quello fantasy e quello molto realista di un dramma adolescenziale che acquista realismo proprio perché c'è quell'altro piano narrativo fantasy che ci racconta le inquietudini adolescenziali meglio di qualsiasi altra formula di scrittura o visiva più attaccata al vero. È proprio andando al di là, andando su quei mostri che la protagonista vede, andando anche in quelle storie quasi da Alice nel Paese delle Meraviglie, c'è Luca Vecchi dei The Pits che fa un cappellaio matto molto gustoso. Io ho il sospetto che questo film andrà molto meglio all'estero che qui in Italia, per tanti motivi, perché proprio forse è un film poco italiano. Mi piacerebbe che andasse bene in Italia per un motivo, perché siamo sempre qui a lamentarci che ci offrono sempre gli stessi film. Adesso entreremo nella stagione in cui vedremo solo gli stessi film, e non parlo solo dei cinepanettoni, e poi però quando arriva magari un sequel di Smetto Quando Voglio che guarda anche fuori dal proprio ombelico, o arriva un film come questo, ci lamentiamo perché non lo riconosciamo, come anche già è successo con alcuni per The Place. E invece se vogliamo un cinema migliore o diverso o che ha il coraggio di andare altrove, noi dobbiamo premiare questo tipo di film qua. E allora, questa la recensione è positiva, quindi, per Annerita Ciccone, per il suo AIM, eccetera, eccetera, eccetera. Noi adesso ci prendiamo un piccolo spazio per cominciare a giocare insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Dormiremo tutte insieme. Siete a vostro agio? Benissimo. Grazie, madame. Bene. Le insegnate di avete fatto la scuola? No, abitano in città. Se ne vanno sempre dopo aver cenato, le 9:30. E allora, avete capito il contesto. Una scuola, delle insegnanti che vanno via dopo cena, delle allieve che si chiedono con un filo di turbamento come mai questo accade. Allora, se avete già indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film e vostro indirizzo. Ci sono due copie in un Blu-ray scintillante in 4K per voi e che vi aspettano. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Nel frattempo invece andiamo avanti ancora con il cinema italiano, perché come dicevo c'è anche una commedia un po' più convenzionale, un po' più tradizionale, quella firmata da Augusto Fornari con Lino Guanciale, Matilde Giole, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Nicoletta Romanoff, tanto per dare un senso e un nome e cognome al cast. Il film si intitola La Casa di Famiglia. Forza ragazzi, se c'è qualche cosa che volete portare via, questa è l'ultima occasione, Che qui ora arriva l'antiquario e svuota tutto. Non ricominciamo, eravamo tutti d'accordo a vendere. Io no. 5.000 goma. Bella roba, col padre al fin de vita, se sono venduti la casa di famiglia. Succede proprio così, succede che questi fratelli vendono tutto, il padre in coma, irreversibile, da 5 anni, eccetera, eccetera, ma a un certo bel momento il padre riapre gli occhi e chiaramente questo si porterà dietro tutta una serie di conseguenze sicuramente comiche. Boris, il tema del ritorno, a volte è un ritorno da fuori, di un uomo che si credeva scomparso e che mette a repentaglio le famiglie, è stato usato in chiave grammatica, in chiave anche comica. Qui chiaramente è in chiave sicuramente comica, e con quali risultati? Ma Augusto Fornari è uno di quei caratteristi teatranti di cui ricordi la faccia e spesso non ricordi il nome, e questo perché sono bravi, perché dei caratteristi non ti devi ricordare il nome, anche se magari i loro agenti non sarebbero d'accordo, e in quanto tale ha una grande capacità di capire i ritmi della commedia, una grande capacità di capire i ritmi degli attori. È nel senso più nobile del termine un bravissimo mestierante, oltre che un artista. E, prima parlavamo di che cosa aveva bisogno il cinema italiano, no? Aveva bisogno di innovazione, ma ha bisogno anche di un livello di commedia, cioè del solito genere che ha più successo in Italia, più alto. E questa commedia è un po' un meccanismo orologeria, nel senso positivo. 90 minuti, e viva Dio che ci si ricorda che le migliori commedie durano poco. Ci sono quattro bravi attori, il carisma anche sensuale di Matilde Cioli, c'è Dino Guanciale che sta crescendo sempre di più, c'è Stefano Fresi che per me potrebbe fare Marlon Brando quanto Danny DeVito e riuscirebbe a farlo comunque benissimo, c'è lo stesso Fornari. C'è una storia che sì, abbiamo visto tante volte, declinata con Una casa di famiglia, Un padre in coma e con quella radiografia comica della famiglia italiana che è sempre un po' cialtrona e comunque per affetto e per empatia cerca sempre di mettere a posto anche quello che non è possibile mettere a posto, anche una casa già venduta, perché appunto ora ci vuole il modo di dire a babbo morto, anche se tale non è. Non stiamo parlando di un capolavoro, stiamo parlando di un compito che se fossimo dei professori probabilmente meriterebbe un voto da 7. Fatto bene, recitato bene, scritto bene, divertente, una di quelle cose che nel fine settimana vai a vedere con gli amici, con la fidanzata e ti diverti, e hai visto una cosa anche abbastanza intelligente che due o tre cose ti ha detto anche di te. Fosse tutto così, il cinema pop italiano, il cinema commerciale italiano sarebbe un passo avanti. Parliamo col Bavoso e chiediamogli se ci lascia a casa qualche mese in più. Alex finisce male, finisce proprio male. Sedie, poltrone, quadri. Luigi XVI. Non c'è neanche il busto di Beethoven. E vedrai che il problema sarà proprio il busto di Beethoven. Lo sistemiamo, lo sistemiamo. Esco domani! La casa di famiglia, adesso lì nella regia, fra poco torniamo con quello che è il blockbuster atteso di questa settimana, Luci e Ombre, ve le preannuncio, ma ne parleremo, stiamo chiaramente facendo cenno a Justice League, fra poco. Soundcheck, il suono della musica. Di Gegè Telesforo. Sì, è vero, vi aspetto il sabato e la domenica a partire dalle 19:15 per un pieno di grande musica in collegamento dal Groove Master Studio per il soundcheck, tutta la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. Yes. Sono Nicoletta Carbone e ho una proposta da farvi. Venite con me a caccia di bufale? Allora dai, segnate in agenda La Bufala in Tavola, Radio 24, ore 12, ogni domenica con Nicoletta. Perché se è vero che siamo quello che mangiamo, non vogliamo mangiare bugie, fake news, leggende o mode, ma solo quello che ci piace, è buono e ci fa stare bene. Allora io vi aspetto, mi raccomando, a mezzogiorno. Alla domenica su Radio 24. La Rosa Purpurea. Eccoci qua ancora insieme, dicevamo, quindi è il momento di parlare di quello che è il successo, non lo so, sicuramente il film a chiappe incassi annunciato nelle speranze di chi lo ha portato in sala, Justice League, vedremo se le cose andranno davvero così, è ancora un DC Comics, quindi un film di supereroi per intenderci, con Ben Affleck nei panni del miliardario Bruce Wayne, che appunto mette insieme questo composito gruppo, eterogeneo gruppo di supereroi nel cast, tanto per fare qualche nome, questi sono sempre cast collettivi molto ampi, ma insomma da Gal Gadot ad Amber Heard, a Amy Adams, Diane Lane, insomma ce n'è, Jeremy Irons, ce n'è un po' per tutti i gusti e per tutte le generazioni. Ascoltiamo la clip e ne parliamo. Non ci sono protettori qui, né kryptoniani. Questo mondo cadrà come tutti gli altri. Si sente la mancanza dei giorni in cui la massima preoccupazione erano i pinguini che esplodono. È una pazzia. Combattere il diavolo e il suo esercito nell'inferno. Non agite da soli. Dobbiamo farlo insieme. Boris, allora, come dicevamo, supereroi a iosa in questo DC Comics, che è una branca, diciamo, dei supereroi che ci ha abbastanza abituato a cose non sempre riuscitissime e non sempre sostenibili, per quanto può essere sostenibile un supereroe. Qui siamo appunto a Bruce Wayne che entra in possesso di questi filmati compromettenti per alcuni metaumani che fanno uso di queste loro abilità soprannaturali. C'è Batman che si allea con Wonder Woman, insomma, detta così sembra uno scherzo, ma in fondo i film sui supereroi si vanno a vedere anche così, anche con quella aria giocosa. Certo che poi devono restituirti qualcosa. Succede in questo caso? Ma con i cinecomics si tende sempre al confronto col fumetto, al confronto tra i cinecomics, perché da bravi nerd ci piace metterci a tifare per la DC o per la Marvel o anche per la Fox. E, allora, se noi vogliamo mettere Justice League, come forse sarebbe anche giusto fare, alla stregua di Avengers e Iron Man, Justice League ne esce con le ossa a pezzi. Sì, però, visto che esce nello stesso periodo di Thor Ragnarok, lo vogliamo mettere a confronto con Thor Ragnarok, che pure mette insieme qualcuno, no, degli Avengers, come dire, marginati, allora però vince a mani basse. Questo perché? Perché la DC Comics evidentemente mostra la volontà di correggere la rotta. Allo Zack Snyder, che ci ha offerto forse il punto più basso di quella saga, affianca Josh Whedon quasi a commissariarlo, e questo ci dice molto della volontà di cercare di marvelizzare la DC Comics. Allo stesso tempo però probabilmente da realtà come Lanterna Verde capisce anche che l'aspetto goliardico è fondamentale per il proprio universo, che prendersi troppo sul serio, come è avvenuto con Batman vs Superman, è il modo migliore per incorrere in una sconfitta fragorosa. E quindi esce un film fracassone, anche confuso, eccessivo, ma che ha una sua coerenza narrativa nonostante la storia non sia irresistibile. Ha un'incredibile amalgama, nonostante, certo, Ben Affleck è ben lontano dall'essere Robert Downey Jr., è un leader senza carisma. Questo Superman non ne parliamo, Wonder Woman ha già denunciato i suoi problemi, Flash è poco più che un adolescente, e Jason Momoa, che fa Aquaman, è sostanzialmente la cosa per cui lo ricordiamo, è l'essere il socio di Battistuta. Però tutti insieme mettono insieme queste fragilità e le fanno diventare una forza, proprio perché il film riesce a non prendersi sul serio, riesce ad essere quel giocattolone da intrattenimento che lavora meglio di altri, che ultimamente, come dicevi tu, mostrano invece la corda, Thor Ragnarok su tutti, ma non solo quello, e ci restituisce quello che in fondo noi dai cinecomics vogliamo, no? Battaglie improbabili, unioni che non ci aspettiamo, battute che vanno dall'aforisma profondo alla pubblicità demenziale. È incredibile, come non saprei neanche spiegarlo a livello critico, come questo film trova un suo equilibrio, ma lo trova alla fine, un equilibrio da 6 più che secondo me per gli appassionati basta e avanza, anche se invece i critici con la puzza sotto al naso di sicuro lo massacreranno, perché insomma troveranno tanto materiale, c'è tanto materiale anche negativo, però alla fine io sono uscito e mi ero moderatamente divertito. Piccola curiosità, c'è a un certo punto, appunto, la moria degli dèi, la moria dei supereroi, c'è una pagina di giornale modello Watchmen, e qui si vede l'impronta di Zack Snyder come nei rallenti insistiti, e ci dice: i supereroi ci stanno abbandonando, e c'è la foto di Lanterna Verde e David Bowie, che è una citazione molto molto bella. Superman era un faro per il mondo. Salvava le persone e tirava fuori da ciascuno la parte migliore. Non lo riconosco, questo mondo. Non lo devi riconoscere. Solo salvarlo. In quanti siete? Non abbastanza. E noi salutiamo il nostro supereroe Boris Sollazzo. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora andiamo avanti, tra poco l'intervista a Luis Bacalov da Chiara Pizzimenti. Prima però dobbiamo giocare con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Un sacco di strani, incredibili e assurdi avvenimenti. Padre le notava già da qualche mese, e prima di andare via, li ha dati a me questi appunti. Ti faccio leggere tutto questa sera. Ecco, la voce inquietante dovrebbe aiutarvi a capire in che clima siamo. Io vi posso dire solo che siamo veramente qualche anno indietro cinematograficamente, ma di fronte a un film che ha fatto epoca. La Rosa Purpurea, chiocciola radio24.it, il titolo del film e il vostro indirizzo, due copie del film in 4K che vi aspettano e che sveleremo prima della fine della trasmissione. Aveva firmato tantissime colonne sonore Luis Bacalov, tra le altre quella del Postino che gli ha dato l'Oscar nel 96, l'abbiamo sentita all'inizio della trasmissione, anche quella di Django Unchained di Tarantino, ma è veramente il suo palmarès personale, il suo curriculum era pieno di nomi straordinari della storia del cinema: Federico Fellini, Pierpaolo Pasolini, Ettore Scola, Francesco Rosi, tanto per stare a quelli italiani più importanti. Ma Bacalov era uno che veniva anche dalla musica pop, che aveva scritto canzoni per i ricchi e poveri, per Gianni Morandi, per Claudio Baglioni, per Mia Martini e soprattutto per Sergio Endrigo. Insomma, era un musicista tutto tondo che ci ha lasciato nel corso di questa settimana. Nel 2008 era capitato a Milano per un concerto e la nostra Chiara Pizzimenti lo aveva avvicinato, aveva intervistato e gli aveva chiesto un po' di raccontarci il suo metodo di lavoro, come si approcciava, come si costruiva una colonna sonora. Se un regista mi dice: senta maestro, io di musica non ci capisco niente, sono sordo, dunque faccia quello che vuole che per me andrà bene, alzo i tacchi, me ne vado, corro come una lepre. Se il primo incontro è positivo, dopo aver visto con molta attenzione il film e tirare la lingua ripetute volte al regista di modo che parlasse, perché tutto questo serve per capire e dopo anche per discutere, sigo avanti, vado al mio studio, metto il registratore e lascio che le dita parlino per me. Sono arrivato alla conclusione che quello che può fare l'improvvisazione non lo può fare mai il cervello, sono due strade diverse. Sento quello che le mie mani hanno dettato alla tastiera dopo un paio di giorni, mai subito. E dico no. Oh! Al momento 32esimo della registrazione trovo qualcosa che mi dice che forse c'è qualcosa di interessante. Annoto queste cose qui e comincio a usare stavolta il cervello. Con questi spunti scrivo delle musiche. Ha detto che con qualcuno non si è trovato bene ed è fuggito. Con chi si è trovato bene invece? Ci sono, come nel romanzo di Goethe, le affinità elettive. Io mi sono trovato bene sempre con della gente con la quale alla fine sono diventato amico. Uno è sicuramente Emidio Greco, l'altro è Franco Giraldi. Per esempio con Pasolini è stato un po' faticoso lavorare, ma ho lavorato con grande piacere con registi come Rosi, Damiani, Lattuada, Mike Radford. Le piace andare al cinema, al di là dei film le cui musiche sono scritte da lei, le piace vedere i film, andare al cinema? Sì, mi piacerebbe andare di più, soltanto che io purtroppo ho avuto questa statuetta che deve costare qualcosa come 200 euro per il Postino, e questa mi ha cambiato un po' la vita, nel senso che io avevo molto tempo per non scrivere, per non suonare. Alla fine mi sono trovato a essere coinvolto in molti progetti musicali con poco tempo per l'altro. Cosa le piace degli altri, dei tanti brani che esegue spesso, uno che le piacerebbe aver scritto? Tantissimi. L'invidia è una brutta malattia che hanno tutti gli artisti. Sempre si è invidioso: ah, guarda che meraviglia, perché l'ha scritto lui, non l'avrei potuto scrivere io. Per esempio le musiche che ha scritto Williams per Schindler's List, trovo che è un piccolo capolavoro di tenerezza, di levità. Un pezzo anche di Morricone che secondo me è un piccolo capolavoro, che è L'indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Sono invidioso di tutti. Il nostro omaggio a Luis Bacalov, l'intervista preziosa di Chiara Pizzimenti. Linea adesso alla viabilità, fra poco un altro ospite qui alla Rosa Purpurea, perché per parlare del musical Spamalot, tratto dal film dei Monty Python, ci sarà con noi Elio, ex Storie Tese, fra poco. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, tutti i giorni alle 6.30 su Radio 24. La rosa purpurea. Inghilterra. Anno Domini 932. Un regno diviso. La leggenda narra di uno straordinario condottiero che si erse dal caos per unire un regno travagliato e turbolento. Re Artù, re dei Britanni. E questa era la Britannia. Noi siamo i cavalieri, e spesso e volentieri mettiamo in scena numeri che chiedano ai minori e lo fa. Non potevamo che aprire con un numero da Spamalot, ovviamente, questa quarta parte della Rosa Purpurea, perché arriva al teatro, anzi è arrivato al teatro nuovo di Milano, di Piazza San Babila, Spamalot appunto, il musical tratto, ispirato al film culto dei Monty Python del 1975, Monty Python e il Sacro Graal. Questo adattamento italiano è stato, il film era poi già diventato un musical ovviamente in Inghilterra e adesso arriva in Italia con la direzione di Claudio Insegno, con l'adattamento curato dallo storico compagno di merende musicali del gruppo delle Storie Tese, Rocco Tanica, e con Elio invece, che è niente meno che Re Artù, insomma un ruolo anche abbastanza interessante da vedere, cucito addosso alla fisicità e alla capacità canora di Elio. È un ruolo iconico, diciamo, della storia di Monty Python, che sono forse il gruppo più vicino in termini di umorismo a quello che è l'umorismo di Elio e le Storie Tese, quindi sicuramente due cose che calzano a pennello. Io voglio subito dire che da questo momento i primi 5 ascoltatori che ci scriveranno semplicemente Spamalot su un SMS indirizzato al 349-238-6666, i primi 5 andranno in coppia a vedere Spamalot al Teatro Nuovo di Milano lunedì sera, il 20 di novembre, alle ore 20.45, troveranno poi i loro biglietti in segreteria, ma saranno ovviamente ricontattati dalla nostra segreteria della Rosa Purpurea. Allora, 349-238-6666, scrivete semplicemente Spamalot, i primi 5 vanno in coppia a vedere questo spettacolo che è uno dei più attesi musical di questa stagione. E noi abbiamo chiesto al protagonista, Elio, un po' di raccontarci il suo rapporto con questo personaggio, con questo Re Artù, e soprattutto se si era mai immaginato di poterlo incarnare qualche volta. Boh, non mi immaginavo in nessun ruolo, se devo dire non mi immaginavo neanche cantante, dunque prendo tutto quello che viene come una cosa nuova, inaspettata, bellissima, e devo dire che me la godo moltissimo. Penso che fra tutti i ruoli quello di Re Artù forse è il più adatto a me, ecco. Mi piace molto essere quello che è stato Roger Chapman nel loro film. Quando hai incontrato il film? Cioè, all'epoca dell'uscita l'hai scoperto subito? No, io ho incontrato i Monty Python a pezzi, diciamo, guardando qui e là, per cui non avevo mai visto il film tutto intero, e se devo essere sincero, tutto completo l'ho visto pochissimo tempo fa. Ho visto il musical, poi loro sono esattamente come fa, non so, spesso Zappa, e come abbiamo fatto anche noi, si autocitano, per cui anche brani, frasi le avevo già trovate in altri sketch, quindi penso di essere sufficientemente immerso nel fluido Monty Python da sufficiente tempo per interpretare al meglio Artù, cioè questo Artù qui, poi, che non è il re vero. Artù Farlocco. Sì, Artù dei Monty Python, che è un meraviglioso falso. Servirebbe un'interruzione, un bisogno, un caffè e fra un po' l'atto 3. Due file. Due. Scappa via, scappa via, scappa via, scappa via, scappa via, via, via, via, via, via, via, scappa via. C'è sicuramente una differenza di mood, di comicità fra quello che è insomma il mondo Monty Python e la comicità più vissuta in Italia. Come hai lavorato a provare a traghettare queste due cose? Ma guarda, come ha detto Rocco, in realtà questo problema qui non ci si deve porselo, perché è la stessa differenza che c'è, per dire, fra le storie tese e, cosa devo dirti, i panettoni, no? Fanno ridere tutti e due, però noi facciamo ridere a un certo tipo di pubblico, certamente molto più piccolo, e i panettoni fanno ridere un altro tipo di pubblico che è molto più insomma grande. Immagino che il pubblico dei panettoni non riderà molto a questo spettacolo di Monty Python. Forse sì, invece, no, non lo so questo, ma sicuramente chi ride per le battute di Elio Storiettese riderà per questo spettacolo, anche perché i Monty Python sono dichiaratamente una delle nostre fonti di ispirazione. Un'ultima cosa, sempre tornando al film, c'è qualcosa che hai rubato, diciamo così, di quell'Artù e di quel Chapman? Qualcosa? Certo, certo, cioè loro sono dei geni, sono degli dèi. Questa cosa mi rispondono sempre, ma no, ma io l'ho fatto mio. Sì, cosa vuoi che mi faccio mio? No, vabbè, ma poi quello è, cioè, fatalmente poi sono io, quello è ovvio, non essendo un attore. No, viene ti fuori sei ispirato che sono più io a quello, diciamo. Sì, però è chiaro che mi sono immerso nel loro mondo da anni e negli ultimi tempi proprio in quel piccolo mondo che è il Sacro Graal e Spamalot, ma proprio come avevo fatto poi quando ho fatto Gomez nel musical degli Addams, che alla fine è chiaro che era un Gomez mio, però la mia ispirazione è quella là. Sì. E allora Elio alla Rosa Purpurea, il Re Artù di Spamalot, fino al 6 gennaio al Teatro Nuovo. Noi concentriamoci adesso invece sui film da vedere a casa, sulle nostre visioni domestiche, cominciando con una breve clip del nostro game della scorsa settimana. Andate via, vai via cane, vai via. Abbiamo parlato di Oscar con Luis Bacalov, era un altro grande premio Oscar. La vita è bella, il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana, perché è uscita una splendida edizione dei 20 anni in Blu-ray, che riceveranno Giovanni Capelli di Bergamo e Andrea Franca Lanci di Terranuova Bracciolini, provincia di Arezzo, e riceveranno appunto questo splendido Blu-ray della vita è bella, edizione del ventennale, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di FinTV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, stiamo parlando di quello che è sicuramente uno dei film italiani più amati nel mondo. Consapevole che i bambini ci guardano, Roberto Benigni, con l'aiuto dello sceneggiatore Vincenzo Cerami, si immerge nell'orrore indicibile che tanto ha dato filo da torcere nella rappresentazione della storia del cinema dell'Olocausto. Lo rivive con occhi di bimbo e di clown, che poi spesso sono la stessa cosa. Benigni raggiunge un equilibrio evitando la retorica quando si fa tragico e la farsa quando diventa comico, mantenendo un rispetto nei confronti del dolore. È vero che Benigni regista è molto convenzionale, ma per una volta il suo stile si dimostra vincente, perché il film acquista in trasparenza. Stiamo parlando di un film premio Oscar di 20 anni fa, che esce in un'edizione speciale appunto per i 20 anni, con negli extra una lunghissima intervista al regista Roberto Benigni. Questo quindi il game della scorsa settimana. Giulio, diamo un'occhiata ai palinsesti televisivi. Due proposte molto interessanti. Mercoledì 22 novembre su Rai Movie alle 2:30 di notte, ahimè, ma puntate i registratori, c'è 12 di Nikita Mikhalkov, grande remake del film di Sidney Lumet del 1957. Un giovane ceceno accusato dell'omicidio del proprio patrigno. 12 giurati sono chiamati a giudicarlo e solamente uno di loro è disposto a prendere quantomeno in considerazione il fatto che il ragazzo possa essere innocente. È il remake di uno dei caposaldi della cinematografia statunitense, ovvero La parola ai giurati di Sidney Lumet, e questo 12 offre tutta l'anima russa del suo regista Nikita Mikhalkov in un movimento che va dalla paura del singolo alla paranoia sociale. Sta veramente la grandezza etica di questo film che mette al centro la necessità di una morale, di una giustizia intera e forse anche la dolorosa consapevolezza che questa non può esistere. Giovedì 23 novembre invece alle 21 in prima serata su Rai 4 un film che vi consiglio sempre di non perdere, si tratta di Whiplash di Damien Chazelle, il regista di La La Land, è il film precedente tra l'altro Damien Chazelle che adesso sta lavorando al film sulla storia di Neil Armstrong, il primo uomo sulla luna, tant'è vero che si intitola First Man. Ebbene, sarà l'occasione per vedere un altro film il quale la musica conta davvero tanto, Giulio. Andrew, 19 anni, vuole diventare il miglior batterista jazz della sua generazione. A istruirlo è l'inflessibile direttore d'orchestra Terence Fletcher, che con metodi da caserma lo spinge veramente oltre se stesso. Damien Chazelle, che poi diventerà premio Oscar per La La Land, veniva da un esordio che innestava il musical hollywoodiano su un dispositivo da Nouvelle Vague ed era anche uno sceneggiatore di un film concerto incardinato proprio sul rapporto tra la musica e l'ossessione che si chiamava Ricatto. Qui in 10 settimane gira e monta con un attore che suona dal vivo e versa sangue vero ed è una sorta di manifesto, un'opera che grida la sua convinzione, cioè quella di rivendicare il diritto di credere a un cinema duro e puro che levi il talento sopra ogni cosa. E allora Whiplash su Rai 4 alle 21 di giovedì 23 novembre. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, la prossima settimana. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, manca solo una cosa da fare, annunciare il film misterioso di oggi. Si trattava di Suspiria, edizione in 4K, settimana prossima i vincitori e la recensione. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.